Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori. Eccoci nuovamente attorno alla parola di Dio, attorno al Vangelo di Marco che ci sta accompagnando passo dopo passo. Questa volta abbiamo spostato la nostra trasmissione, normalmente è il terzo lunedì di ogni mese, questa volta invece l'ho dovuta far spostare. Chiedo venia agli ascoltatori più fedeli che magari non si sono trovati in compagnia del Vangelo di Marco. All'inizio di questa trasmissione ricordo sempre quelli che sono gli obiettivi del nostro confrontarci insieme sulla parola di Dio, sul Vangelo di Marco. Il primo obiettivo è quello di cercare di scavare dietro la narrazione dell'Evangelista per vedere come lo stile narrativo utilizzato dall'Evangelista spesso contiene già un messaggio per ciascuno di noi e quindi è importante quando noi leggiamo dei testi contestualizzarli nell'insieme della narrazione. Ovviamente ogni testo che noi ascoltiamo dai Vangeli è una perla preziosa, però questa perla è incastonata in un tesoro molto più ampio e allora uno apprezza il valore della perla quando la coglie nell'insieme del tesoro in cui questa è incastonata. Il secondo obiettivo è quello di scavare dietro le parole. A volte se è importante avere la cornice di insieme, quindi l'orizzonte più ampio, nell'orizzonte più ampio è importante anche avere l'occhio buono per cogliere i dettagli. E allora il dettaglio di una parola, il dettaglio di un aggettivo, il dettaglio di una particella a volte utilizzata dall'Evangelista ci permettono di entrare nella forza e nella luminosità di un messaggio che altrimenti ci sfuggirebbe e questo nutre anche il nostro cammino di discepoli, provoca la nostra fede. L'ultimo obiettivo è quello di far sì che la parola non tocchi solo la nostra mente, ma dalla mente passi al cuore e plasmi la vita, sia una sorta di pungolo che plasma il nostro discepolato cristiano. E noi lo sappiamo, per far questo non è possibile, non è sufficiente la nostra intelligenza. L'intelligenza è preziosa, però non basta per entrare negli insegnamenti di Dio. Per entrare nel cuore di Dio occorre il dono dello Spirito Santo ed è proprio quello che chiediamo insieme vicendevolmente all'inizio di questa nostra puntata. Ricordo anche che, come sempre, la nostra puntata sarà scandita in due momenti. I primi 45 minuti sono dedicati alla mia riflessione sul brano, gli altri 45 minuti sono dedicati invece alle vostre domande o alle vostre puntualizzazioni. Come sempre, chi mi segue lo sa, questa seconda parte per me è importante quanto la prima. Grazie alle vostre domande spesso siamo riusciti ad approfondire, a far emergere alcuni aspetti che altrimenti sarebbero passati sotto silenzio nella mia riflessione. E questo ci fa capire anche come la parola di Dio non è mai fatta per l'interpretazione o la riflessione puramente personale. Acquisisce la sua ricchezza solo quando dalla riflessione personale si passa alla condivisione, a quella dimensione comunitaria che è il luogo di nascita della parola e il luogo anche dove la parola continua a vivere e a illuminare la nostra esistenza. Bene, detto questo, fatta questa premessa, possiamo continuare la nostra lettura continua del Vangelo di Marco. Siamo arrivati ad un momento cruciale della narrazione, perché siamo arrivati al capitolo 15. Per quanti di voi sono nella possibilità di farlo, invito di prendere in mano un'edizione della Bibbia o altrimenti un'edizione dei Vangeli e di seguire passo passo il testo insieme a noi. Siamo al capitolo 15, questa sera commenteremo insieme i versetti che vanno dal 25 al 37. Marco colloca gli episodi ai piedi del Golgota, dove Gesù, l'abbiamo ascoltato la volta scorsa, è stato trascinato a forza dai soldati carico della croce. Questi versetti, versetti 25-37, sono scanditi in modo molto preciso, molto puntuale dall'Evangelista Marco. Si può dire che c'è quasi una scansione oraria della narrazione che va da 3 ore in 3 ore. Il racconto era iniziato al mattino, presto, all'alba, quando Gesù riceve la condanna a morte e viene consegnato ai soldati. Dopodiché iniziamo la narrazione dal versetto 25 con la menzione delle 9 del mattino, quella che nei tempi di Gesù era chiamata l'ora terza, quindi le 9 del mattino. Il racconto poi prosegue scandendo lo scoccare di mezzogiorno, la cosiddetta ora sesta, per poi culminare nell'ora nona, le 3 del pomeriggio. Anche se, come sappiamo, questo non è l'ultimo momento è il momento del tramonto che corrisponde alla cosiddetta ora duodecima, cioè le 6 del pomeriggio. Ecco, come vedete, quindi la narrazione dell'Evangelista Marco segue una scansione molto, molto precisa. Cominciamo ad ascoltare direttamente il testo leggendo insieme l'episodio che è narrato al momento delle 9 del mattino. L'episodio era chiuso nei versetti da 25 a 32 del capitolo 15. Erano le 9 quando lo crocifissero. L'iscrizione con il motivo della condanna recava scritto: il re dei giudei. Con lui crocifissero 2 briganti, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Quanti passavano lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: ecco quello che distrugge il santuario e lo ricostruisce in 3 giorni. Salva te stesso scendendo dalla croce. Ugualmente anche i capi dei sacerdoti, scherzando tra loro con gli scribi, dicevano: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Il Messia, il re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Ecco, questi elementi costituiscono il contenuto delle 9 del mattino, dell'ora terza. Se avete prestato attenzione a questi versetti, avrete notato che, diversamente dagli altri evangelisti, in Marco, nell'ora terza, nulla fa pensare a un minimo di partecipazione da parte dei presenti al dramma vissuto dal Maestro. Ci sono i passanti che lo ingiuriano, i capi dei sacerdoti e gli scribi che scherzano su di lui lo beffeggiano, gli stessi crocifissi lo insultano, i briganti lo insultano. Quindi non troviamo, come ad esempio nella narrazione lucana, l'episodio del ladrone che si lascia in qualche modo commuovere dalla condanna che Gesù sta ricevendo e trasforma la commozione in una richiesta di perdono, in una preghiera, in un'invocazione di ricordarsi di lui: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Non c'è nemmeno ai piedi della croce la madre o il discepolo amato, come invece vedremo nel Vangelo di Giovanni. La narrazione di Marco offre un punto di vista particolare, che è quello di questo evangelista, che tiene a sottolineare la desolazione e la solitudine del Maestro. Una solitudine che vede e enfatizza i grandi assenti in questa scena. I grandi assenti in questa scena sono i discepoli. E la loro assenza è particolarmente evidenziata perché in uno di questi versetti, il versetto 27, che dice: con lui crocifissero due briganti, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, nella sua seconda parte riprende alla lettera un episodio che era stato narrato pochi capitoli prima, al capitolo 10, che riguardava proprio due dei discepoli prediletti, Giacomo e Giovanni. Rileggiamo quell'episodio, siamo al capitolo 10, dal versetto 35 in poi. Gesù si sta incamminando verso Gerusalemme e mentre si incammina verso Gerusalemme si avvicinano Giacomo e Giovanni. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Ecco, questo episodio menziona due volte quel sedere alla destra, quello stare alla destra e alla sinistra, che evoca il ruolo ovviamente dei primi ministri, delle persone importanti, dei primi ministri del re. Quando Giacomo e Giovanni, che sono fratelli, fanno la loro domanda a Gesù, ovviamente pensano a Gesù come il re atteso, il nuovo Davide che avrebbe restaurato Gerusalemme, avrebbe cacciato i pagani. Ora, la regalità di Cristo, che tra l'altro all'ora terza, alle 9 del mattino, è proprio l'elemento che viene continuamente deriso, la regalità di Cristo si manifesta in un modo totalmente diverso. Alla destra e alla sinistra ci sono i due briganti e Giacomo e Giovanni sono i grandi assenti. Non solo, ma i capi di accusa che Marco mette in evidenza in questo momento della narrazione, alle 9 del mattino, riguarda proprio la regalità di Gesù. L'abbiamo ascoltato al versetto 26, dove veniva detto: l'iscrizione con il motivo della sua condanna recava scritto il re dei giudei. Notate il tema della regalità. L'iscrizione che cos'era? L'iscrizione era il cosiddetto titulus, sul quale veniva indicato il capo di accusa che aveva portato alla condanna di chi era portato alla morte. Durante il corteo in genere era portato da un soldato, per poi essere messo al collo del condannato o sul palo della croce, in modo che fosse ben visibile a chi passava e fosse di ammonimento per loro. Ora, questa iscrizione, quindi, che riporta un po' il capo di condanna di Gesù, riporta questo elemento, il re dei giudei. Non solo, ma anche quelli che scherzano su di lui, gli scribi insieme ai capi dei sacerdoti, dicono: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso, il Messia, il re di Israele, notate la ripresa del tema della regalità, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. Quindi l'elemento della regalità di Cristo unito al sedere alla destra e alla sinistra sono quegli aspetti che richiamano l'episodio di Giacomo e Giovanni. L'ora terza è quindi il momento in cui Gesù prova la massima desolazione. Tra l'altro qui si diversifica il racconto anche dai brani precedenti, perché fino a questo momento, se noi andiamo a notare la narrazione, anche nel momento del processo a Gesù, pur nella negatività degli episodi, c'era sempre una persona che si schierava in qualche modo a suo favore. Al momento, ad esempio, dell'arresto, tutti i discepoli fuggono, però ce n'è uno che lo segue. Prima è Pietro, poi è quel giovane che viene afferrato per il mantello e lascia il lenzuolo nelle mani degli arrestatori e fugge via nudo. Però c'è un tentativo di solidarietà nel gruppo dei discepoli, anche se poi ovviamente la maggioranza fugge. Sul versante del mondo pagano avviene la stessa cosa, perché se voi notate, ricordate l'episodio del processo davanti a Pilato, Pilato si rende conto di quello che stava succedendo, cioè che c'era un complotto contro questo condannato a morte e cerca più volte di liberarlo, restando però con le mani legate. Però da parte sua c'è un tentativo, è una persona che rappresenta un minimo di solidarietà, anche se poi se ne, come dire, una solidarietà fragile, che lascia il tempo che trova, però c'è un tentativo di solidarietà. E poi c'è anche un rappresentante del popolo. Ricordate l'episodio di Simone di Cirene, tra l'altro ben precisato come il padre di Alessandro e Rufo, probabilmente Alessandro e Rufo erano due membri della comunità marciana, che porta la croce, certo è forzato a portare la croce di Gesù, però in qualche modo rappresenta un elemento di solidarietà nei confronti del Maestro. Ora invece, in questo momento, all'ora terza, niente assicura un minimo di partecipazione al dramma vissuto da Gesù. I fatti delle 9 del mattino dichiarano che tutto il mondo umano ha abbandonato e respinto il Maestro. Ci sono i soldati, quindi il mondo pagano, che lo insultano, ci sono le autorità religiose, quindi il mondo ebraico, che si fanno beffe di lui, e poi ci sono i discepoli, che sono i grandi assenti. I tre grandi gruppi umani in questo momento sono usciti di scena, abbandonando completamente quello che era il Maestro per eccellenza, quello che doveva essere il loro punto di riferimento. E questo è ancora più grave quando noi pensiamo, se noi pensiamo che nella mentalità del primo secolo un maestro era, l'insegnamento di un maestro era per così dire vidimato, autorizzato solo nel momento in cui i discepoli ne confermavano la veridicità attraverso la loro sequela. Il fatto che ora tutti lo abbandonano sembra quasi che anche l'insegnamento di questo maestro sia per certi aspetti fragile, inutile, sfumato. L'ora delle 9 del mattino, l'ora terza, ci pone quindi di fronte a un'immagine molto forte della passione. Gesù, per donare se stesso, passa attraverso la dolorosa pagina della solitudine, una parola che incombe sulla prima comunità cristiana. Alcuni autori ritengono che Marco abbia evidenziato in modo così forte anche la pagina della passione proprio perché la sua comunità vive l'esperienza delle persecuzioni quando lui scrive. Ecco, è difficile confermare o meno questa lettura, però certamente l'Evangelista Marco evidenzia in modo forte questa dimensione, la solitudine di Gesù. Lasciamo ora uno spazio, un breve stacco musicale, in modo che ciascuno di voi ascoltatori può rileggere questi versetti, prima di passare al secondo passaggio, che è il secondo momento orario, quello dell'ora sesta. Quindi un breve stacco musicale, dopodiché riprendiamo la nostra riflessione. Ecco, abbiamo riflettuto quindi insieme sulla prima fascia oraria del mistero che accompagna la morte di Gesù, quindi il momento delle 9 del mattino. Il racconto poi prosegue evidenziando la seconda fascia oraria, quello di mezzogiorno. Marco vi dedica un solo versetto, il versetto 33. Giunto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3. Ecco, la menzione di queste 3 ore di tenebre costituisce un particolare che il Vangelo di Marco condivide con Matteo e con Luca. Se noi andiamo a leggere gli altri due evangelisti, quindi Matteo e Luca, notiamo che tutti e due hanno la menzione del buio. Però Marco ha una sua particolarità, perché se nel primo Vangelo, quindi nel Vangelo di Matteo, le ore di tenebre fanno parte di una serie di elementi della natura che danno un tono, come dire, escatologico, cioè che anticipa i tempi della fine del mondo sulla scena, nel Vangelo di Marco non possono essere intese in questo modo. Vi leggo, così per cogliere la differenza, il brano di Matteo. Il brano di Matteo dice: a mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, e alle 3 del pomeriggio il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Allora, notate come nel Vangelo di Matteo le tenebre sono parte di tutta una serie di episodi: il terremoto, le rocce che si spaccano, il velo del tempio che si squarcia, le tombe che si aprono, che vogliono evidenziare, che fanno delle tenebre un segno dell'intervento di Dio nella storia. Cioè, Dio non è assente, non è il grande assente al momento della morte di Gesù, ma è colui che è presente, ed è presente a tal punto da sconvolgere gli elementi della natura. Il suo intervento è affine a quelli che saranno gli interventi di Dio negli ultimi tempi, quando verrà nella gloria alla fine dei tempi. Quindi la sottolineatura di Matteo, se noi stiamo all'episodio di Matteo, è una sottolineatura che indica la presenza potente di Dio in quel preciso momento storico. Se andiamo sul Vangelo di Luca, Luca dà ancora una sfumatura ancora diversa all'episodio, perché legge quanto succede al momento della morte di Gesù, un'eclisse solare. Luca scrive così, siamo al capitolo 23, versetti 44-45 di Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Per Luca quelle tenebre sono un'eclisse di sole. La cosa è curiosa, perché è impossibile che ci sia un'eclisse di sole in occasione della Pasqua, perché noi sappiamo che la Pasqua ebraica, che è il momento in cui Gesù viene messo a morte, avviene quando la luna è piena. E quando c'è luna piena, la luna è piena, non può esserci eclisse di sole, la luna deve essere nuova perché ci sia un'eclisse di sole. Quindi la lettura che fa Luca è quella di cogliere in quella eclisse di sole, il sole che si eclissa, un fenomeno naturale, tanto vero che molti esegeti dicono Luca parla di un'eclisse di sole non indicando il fenomeno naturale della luna che passa sopra la visuale umana del sole, ma indica che il sole è stato offuscato magari dal vento del deserto, dal cosiddetto Hamsin, che nel periodo appunto primaverile caratterizza spesso Gerusalemme, questo vento sabbioso che ha il potere di rendere proprio oscura o di dare un volto proprio inquieto alla città di Gerusalemme. Chi ha avuto modo di stare a Gerusalemme o nei dintorni di Gerusalemme e quando c'è questo fenomeno sa che effettivamente il vento del deserto dà una tonalità cupa all'intera città. Quindi Matteo e Luca rileggono le tenebre, ma a modo loro. Marco invece legge in queste tenebre un momento che, come dire, scava ulteriormente quella solitudine che aveva evidenziato all'ora delle 9 del mattino. Se alle 9 del mattino Gesù viene abbandonato dal contesto umano, quindi dai discepoli, dal mondo pagano, dal mondo ebraico, tutti erano rappresentati ai piedi della croce e tutti rappresentano come dire, un elemento di rifiuto nei suoi confronti, allora festa chi si ritrae, chi rifiuta Gesù, è la creazione. Quindi allora alle 9 del mattino è tutto il consesso umano, il mondo umano, alle 12, a mezzogiorno, è tutta la creazione che rifiuta il Maestro. Questa lettura di Marco acquisisce un certo significato quando noi ricordiamo il modo in cui Gesù entra in scena. Se voi ricordate, dopo il battesimo di Gesù al Giordano, che è il momento in cui Gesù entra in scena, Gesù viene mandato nel deserto e i 40 giorni nel deserto si chiudono con la restaurazione della luminosità paradisiaca. Gesù stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Marco dà proprio questo quadro iniziale, dove Gesù è il restauratore dell'armonia delle origini. Bene, alla fine del suo ministero il mondo sembra ripiombare nelle tenebre. Ripiombare nelle tenebre significa ripiombare nell'anticreazione, nella decreazione, cioè nel momento in cui la luminosità delle origini lascia nuovamente spazio al caos originario, un altro segno di fallimento. Se al mattino, alle 9, il fallimento è sul piano umano, perché l'insegnamento di Gesù non ha prodotto un solo discepolo capace di stare ai piedi della croce, è diverso invece è il momento del mezzogiorno. Il momento del mezzogiorno è un secondo fallimento, perché Gesù non è stato in grado di portare quell'armonia che si prefiggeva agli inizi del suo ministero pubblico. Alcuni hanno visto anche nel segno delle tenebre il richiamo a un testo dell'Antico Testamento, il testo del profeta Amos. Al capitolo 8 il profeta Amos parla delle tenebre come il segno del giudizio di Dio su un mondo che oramai non lo segue, non lo ascolta più. Leggiamo il testo del profeta Amos. In quel giorno, oracolo del Signore Dio, farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra in pieno giorno. Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. Farò vestire ad ogni fianco il sacco, farò radere tutte le teste, ne farò come un lutto per un figlio unico e la sua fine sarà come un giorno d'amarezza. Innegabile il legame che il lettore può fare. Noi dobbiamo tenere presente che i lettori delle pagine dei Vangeli, della narrazione dei Vangeli, erano uomini che frequentavano la sinagoga, che ascoltavano i testi del Pentateuco e dei profeti che venivano letti ogni sabato nella sinagoga. E quindi richiamare queste tre ore di tenebre da mezzogiorno alle tre deve avere evocato negli ascoltatori questa pagina del profeta Amos, dove il capo d'accusa è sul popolo che non è più fedele, non c'è più nessuno che ascolta, e allora l'unico modo di intervento di Dio è quello di far piombare il giudizio sul popolo attraverso il segno delle tenebre. Ora però il giudizio, nel caso di Marco sembra sottolineare questo, non cade solo sul popolo, ma cade anche sul figlio. Il figlio, per il quale quel figlio unico, ne farò come un lutto per un figlio unico, questo figlio unico è colui che si è caricato della situazione dell'umanità portandola su di sé sulla croce. Significativo anche il modo in cui Marco mette in scena le tenebre, dice: si fece buio su tutta la terra, e fallen tengen, fino alle tre. Questo e fallen tengen non indica che si fece buio solo in Palestina, ecco perché non si tratta di un'eclissi, ma olen tengen è il mondo intero, quindi interpretare l'oscurità come un'eclisse di sole è del tutto fuori luogo, perché la sottolineatura che l'evangelista Marco vuole dare è che quelle tenebre avvolgono l'umanità intera e sono le tenebre del peccato che Cristo ha assunto su di sé portandola sulla croce, esponendosi, possiamo dire così, a quello che è il fallimento massimo, il fallimento del suo ministero. Quindi da un lato abbiamo le 9 del mattino, quando Gesù è abbandonato da tutto il consesso umano, discepoli, autorità religiose e autorità pagane. Al mezzogiorno Gesù viene abbandonato da tutta la realtà della creazione, rappresentata proprio da queste tenebre. È la creazione, quindi l'armonia delle origini che si ritrae per far ripiombare sulla scena l'immagine del caos, l'immagine con cui inizia la scrittura, quando le tenebre avvolgono tutta la terra. Lasciamo ancora un breve stacco musicale prima di passare alla terza fascia oraria, cioè all'ora nona, alle 3 del pomeriggio, quando Gesù morirà sulla croce. Vedremo qual è in questo contesto la sottolineatura dell'Evangelista. Dopo la menzione dell'ora sesta, quindi del mezzogiorno e delle 3 ore di tenebre, il racconto continua così, il racconto di Marco. Alle 3 Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, avendo sentito, dicevano, ecco, chiama Elia. Correndo allora uno, dopo aver riempito una spugna di aceto, fissatala su una canna, gli dava da bere dicendo, aspettate, vediamo se viene lì a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Ecco, questo è, siamo nella terza fascia oraria, il momento culmine della morte di Gesù, e notiamo anche qui alcune particolarità nella narrazione dell'Evangelista. L'Evangelista sembra continuare a evidenziare la solitudine fissata, vissuta dal Maestro. Lo notiamo da alcuni aspetti che caratterizzano la narrazione. Notate prima di tutto la ripetizione dell'espressione Dio mio, Dio mio. Il fatto che l'espressione sia ripetuta 2 volte è un modo per sottolineare la drammaticità del momento. A questo si aggiunge il grido. Tra l'altro non è solo un grido, è un grido forte. E lo vedremo la volta prossima. Ciò che provoca la conversione del centurione ai piedi della croce è vedendolo spirare in quel modo, cioè con quel grido forte. Quindi Dio mio, da un lato la ripetizione, il grido forte dall'altro, l'utilizzo, il rivolgersi a Dio con una preghiera che lo chiama in causa come Dio. Guardate che nella narrazione del Vangelo Gesù non si è mai rivolto al Padre chiamandolo Dio. Si rivolge al Padre chiamandolo Dio in questo momento, come se volesse chiamare in scena la sua potenza in un momento così drammatico. Persino nel momento di grande prova del Getsemani, Gesù si era rivolto al Padre chiamandolo Abba, un titolo di affetto. Ora invece, provato sulla croce, spogliato, denudato, crocifisso, l'unico grido che esce dalle sue labbra è il grido che chiama in scena la potenza di Dio, chiamandolo appunto Dio. Altro elemento, non si limita a dire Dio, Dio perché mi ha abbandonato, ma dice Dio mio, c'è questa sottolineatura che sembra quasi dare un tono fortemente affettivo. Il Dio che lui invoca è un Dio con cui c'è una sintonia di fondo. Poi c'è l'evocazione del Salmo, il Salmo 22, enfatizza ulteriormente la scena, perché nessun altro versetto in tutto il Salterio esprime in modo tanto radicale la lontananza di Dio, tanto più se collocato sullo sfondo della passione così come è raccontata da Marco. E infine la duplice lingua con cui questo grido è espresso, perché prima viene descritta in aramaico e poi tradotta in greco. E noi sappiamo che nel Vangelo di Marco, quando c'è la doppia lingua, cioè l'aramaico e il greco subito dopo, è perché Marco vuole dare una particolare enfasi alla scena, coinvolgendo emotivamente il lettore. Quindi L'ora nona è caratterizzata da un grido che chiama in scena il padre, e il padre in questa scena è il grande assente. Se noi abbiamo, riflettiamo sulla composizione del racconto marciano della morte di Gesù, notiamo che alle 9 del mattino esce di scena il consesso umano, Gesù è lasciato solo dagli uomini. A mezzogiorno Gesù è lasciato solo dalla creazione, alle 3 del pomeriggio Gesù è lasciato solo dal Padre. Quindi tutto quello che poteva rappresentare una solidarietà attorno al Figlio, attorno a Gesù, esce di scena e Gesù prova quella che è la notte oscura, ecco il significato delle 3 ore di tenebre. Gesù cala, scende fino ai drammi della storia. Era l'ultima dimensione dell'incarnazione che doveva raggiungere. L'incarnazione raggiunge il suo culmine quando Gesù vive la kenosi fino ad abbracciare su di sé l'esperienza dell'ultimo della storia, di colui che si sente abbandonato dagli uomini, dalla creazione e da Dio stesso. Gesù fa l'esperienza dei condannati. Ecco, oggi all'inizio della trasmissione non ho chiesto il sostegno di nessuna categoria di persone, ma c'è una categoria che mi sta particolarmente a cuore in questa trasmissione ed è la categoria dei carcerati, soprattutto di coloro che si trovano in carcere magari per motivi ingiusti e che vivono l'esperienza drammatica di questa solitudine radicale. Pensate, proprio in questo momento, mentre va in onda la nostra trasmissione, c'è un amico che sta vivendo un processo, che è stato incarcerato ingiustamente per 2 anni nel carcere di Bollate, qui vicino a Milano, prima in un altro carcere molto più duro, poi è stato trasferito a Bollate e oggi ha un'altra fase del processo, spera di tornare a casa, però non è così sicuro. E mi ha raccomandato molto, prega per me in questa giornata, in modo che mi sia fatta giustizia, che mi sia fatta giustizia. A volte ecco l'esperienza di chi vive nel carcere è questa, le tenebre al massimo, perché poi c'è una certa immagine che porta gli uomini ad abbandonare, c'è la notte interiore, ci si sente abbandonati da Dio perché non si capisce magari perché si vive quella particolare esperienza. Ecco, Gesù ha fatto su di sé, ha preso su di sé un'esperienza di questo tipo. Tra l'altro, quello che rende più dura l'esperienza di abbandono di Gesù è il fatto che la preghiera, quindi l'unico elemento che in questo momento lo tiene collegato al Padre, l'unico momento che lo tiene collegato al Padre, la preghiera viene fraintesa, quindi sembra quasi non riuscire a raggiungere il suo obiettivo prima che venga rapita dagli uomini che sono ai piedi della croce e fraintesa. In quel Eloì, Eloì, che lui grida, alcuni pensano che stia chiamando Elia, probabilmente perché sono i soldati romani che non conoscono l'aramaico e dicono vediamo se viene Elia a farlo scendere. E quel fraintendimento che vorrebbe chiamare in scena Elia richiama paradossalmente un altro episodio di tutt'altro genere, richiama l'episodio della trasfigurazione. Ricordate il capitolo 9 del Vangelo di Marco, quando sul monte, in cima al monte, Gesù vive l'esperienza della profonda comunione con il Padre lo avvolge nella sua gloria, lo trasfigura e accanto a lui c'è Mosè ed Elia che conversano con lui. Ora in questo momento non solo Mosè ed Elia non ci sono, ma non c'è nemmeno il Padre che trasfigura questo momento di umiliazione in un momento di grande luce. E arriviamo alla descrizione della morte di Gesù. La descrizione della morte di Gesù nel Vangelo di Marco contiene un duplice messaggio. Da un lato viene nuovamente ripreso il grido e le tre del pomeriggio iniziano e finiscono con il grido di Gesù. Gesù, dando un forte grido, notate ancora questa espressione, phonēn megālēn, è proprio un forte grido, quindi è la violenza dolorosa che accompagna la morte del figlio, dall'altro il fatto che questa esperienza drammatica si schiude ad un germoglio, che è il verbo con cui viene descritta la morte. Marco non descrive la morte di Gesù con un verbo che indica la violenza, la morte fisica, ma utilizza un verbo che richiama lo spirito. Il verbo è ekpneo, che è collegato a pneuma, quindi a spirito, ed indica appunto che Gesù, dando un forte grido, lascia uscire lo spirito. Quindi il momento della morte di Gesù, il momento in cui Gesù abbraccia la realtà umana fino alla sua ultima feccia, è un momento di dono ulteriore di sé, il dono massimo, che è il dono dello Spirito Santo. Questo permetterà alla scena di trasfigurarsi, però notate, perché la scena si possa trasfigurare, e questo è il tema che approfondiremo la volta prossima, perché la scena si possa trasfigurare è necessario che Gesù abiti l'esperienza delle tenebre fino alla sua, al suo punto più basso, fino all'esperienza del triplice abbandono, l'abbandono degli uomini alle 9 del mattino, l'abbandono della creazione a mezzogiorno, l'abbandono del Padre alle 3 del pomeriggio. Ecco, spero, cari ascoltatori, che l'aver ripercorso insieme questo momento particolare della narrazione di Marco ci aiuti a cogliere il grande dono che Gesù ha fatto con la sua vita, e ci aiuti a cogliere anche quel segno che magari portiamo addosso ogni giorno, abituandoci, il segno della croce. È un segno che ci facciamo all'inizio di ogni preghiera, è un simbolo che portiamo al collo, purtroppo oggi non solo al collo, lo si porta anche altrove, ma è un segno che ha un valore immenso, perché dice fino a che punto la donazione di noi stessa, di noi stessi, deve arrivare. In queste tre fasce orarie della narrazione di Marco, tipiche di Marco, c'è tutta la radicalità di una sequela che i discepoli per il momento non sono stati in grado di seguire, ma che poi, ecco, riusciranno a riprendere e a ripercorrere. Ecco, ora lasciamo lo spazio musicale, uno spazio un po' più ampio, più lungo, perché deve dar modo a voi di intervenire. Ricordo, sono molto importanti le vostre domande o le vostre riflessioni, perché ci permetteranno di scavare ulteriormente questi versetti che insieme abbiamo commentato. Quindi resto in attesa dei vostri interventi e ora vi lascio un breve stacco musicale. Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, sono Lina da Roma. Volevo chiederle, tutto questo immane dolore che ha sofferto Gesù per noi, veramente il pensiero di queste atrocità è terribile da sopportare. Possiamo pensare che lui stesso ebbe la forza di sottomettersi e sopportare tutto questo perché sapeva che il terzo giorno sarebbe risorto e sarebbe cominciata una nuova vita per lui e in prospettiva anche per noi. Grazie, ascolto per l'altro. Mi dice il suo nome, mi ripete il suo nome? Se non ho fatto a tempo, penso sia Lina da Roma, se ho capito bene. Allora, la ringrazio per questa sua telefonata. Io risponderei in questo modo alla domanda, cioè Gesù è in grado di vivere fino in fondo questo dolore, perché questo dolore non è un dolore sterile, è un dolore carico di amore. Ogni ferita che si apre nel suo cuore, nel suo corpo, è una porta aperta che si fa spazio accogliente per l'uomo. Ogni esperienza che Gesù vive negli attimi di questa giornata che è così scandita dall'Evangelista Marco, è uno spazio che accoglie una categoria diversa di persone. Accoglie, noi abbiamo parlato di chi è in carcere, ma accoglie i carcerati, accoglie gli umiliati, accoglie i briganti. Ogni ferita è una porta aperta. È questo che permette a Gesù di vivere tutto ciò. Ovviamente anche l'esperienza, la consapevolezza, la fiducia nella presenza del Padre. Gesù vive dentro di sé l'amore che il Padre ha per l'umanità e lo rivela. Quindi questo è ciò che dà vita. Ovvio che in Gesù c'è la consapevolezza che questo amore non ha fine, che questo amore non muore e che la morte non rappresenta l'ultima parola sull'esistenza umana. Però stiamo anche attenti a dire Gesù ha vissuto tutto questo perché tanto sapeva che doveva risorgere, perché rischieremmo di sminuire o di rendere meno seria l'esperienza del dolore che Gesù ha fatto. Gesù vive fino in fondo questo dolore perché lo sa caricare di un significato profondo, quello di renderlo spazio di rivelazione per il Padre, spazio in cui il Padre abbraccia pezzo dopo pezzo tutta l'umanità. Grazie di cuore Lina per questa domanda centrale e profonda. Pronto? Pronto, buonasera. Qui ho una consacrata di Venezia. Riguardo al carcere, alle persone innocenti, volevo dire una cosa. Io sono stata 10 anni, ho prestato servizio in carcere a Venezia e le dico che ci sono state delle persone anche innocenti, ma si vedeva subito, si intuiva dal loro comportamento cosa. Volevo dire che ho trovato, non dico una soluzione, quando andavo a celebrare la misericordia del Signore, io le offrivo al Signore, ne parlavo di queste persone e veramente ho toccato con mano, non perché lo chiedevo io, ma per la bontà del Signore, i miracoli, diremo, le cose si chiarivano e nel giro di pochi giorni andavano fuori. Ed era per me una grande gioia. Lei cosa ne pensa? Grazie carissima sorella, sicuramente l'esperienza del carcere che lei ha fatto le ha permesso anche di essere proprio segno di Dio all'interno del carcere. È difficile esprimere un parere su quello che lei ha detto. È vero che il Signore in genere favorisce la giustizia, rende giustizia, non sempre però è così. Ci sono magari alcune situazioni dove per diversi motivi l'esperienza dolorosa, una certa esperienza dolorosa si prolunga, si moltiplica. Io portavo il caso di questo amico, lui per alcuni anni è rimasto in una cella con un pluriomicida, aveva commesso il suo compagno di cella 8 omicidi e lui era in cella con lui e a un certo punto mi confidava, mi diceva questo qua è stato la mia salvezza, perché alla fine siamo riusciti ad entrare in una, come dire, in una relazione talmente bella e significativa che al di là di quello che poteva essere stato il suo passato, però siamo diventati motivo un po' di luce, di speranza anche per gli altri che erano in carcere, perché un pochino tutti e due erano artisti e quindi hanno cominciato a mettere in piedi una scuola di arte, di colori, di teatro all'interno del carcere, che ha permesso di alleviare anche un certo stile di vita. Ovviamente questo non ha tolto tutto il dolore di una situazione ingiusta, con tutte le fatiche annesse, però ecco, una cosa è certa, anche nell'esperienza del carcere il Signore non lascia mancare i suoi segni, la presenza di un gesto, una parola, una luce di consolazione. E penso che la presenza di voi consacrate, come è avvenuta nella sua esperienza, sia proprio uno di questi segni. Il Signore si serve a volte della presenza di un consacrato, di una consacrata, di un volontario, di un cappellano con la testa sulle spalle, per portare il segno di una presenza che comunque non viene meno, e quel segno di una presenza rende efficace anche quella pagina di vita dolorosa. Mi viene in mente, mentre parlo, l'esperienza del patriarca Giuseppe, non lo sposo di Maria, ma Giuseppe, il figlio di Giacobbe. Ecco, è un po' l'emblema del giusto che finisce nel carcere del faraone e che da lì poi diventa un po' il segno di una salvezza, al punto tale che in quel dolore, grazie a quel dolore si trasforma anche per Giuseppe in una porta aperta, dove trova accoglienza non solo la sua famiglia, Giacobbe e i suoi fratelli, ma trova accoglienza tutto l'Egitto, che viene risparmiato dalla decimazione che avrebbe potuto portare la carestia. Quindi è strano, ovviamente noi a queste letture riusciamo ad arrivare solo dopo, riusciamo a capire cosa producono certe esperienze, però nell'ottica di Dio a volte, ecco, questi segni, questi cammini sono possibili proprio perché è la sua grazia che accompagna. Questa sicuramente c'è sempre, grazie a questa consacrata che ha condiviso un'esperienza così significativa. Pronto? Sì, buonasera signor Padre Pio, sono Massimo di Sant'Assenio, di Salerno. Mi dica, Massimo. Senti, signor padre, mio padre non era tanto bene quest'anno. Io ho pregato sempre per Gesù. Mio padre si chiama Agnello, perché lui aveva un po' di diabete. Allora lui non si sente tanto bene. Allora io ho pregato sempre a Radio Maria. Radio Maria ha portato Gesù a mio padre tanto bene. Come la pensate, signora, padre Pio? Ecco, grazie, spero di aver capito bene la sua domanda, dove lei appunto dice che si è affidato alle preghiere della comunità di Radio Maria, e non si prega Radio Maria, si prega ovviamente ci si unisce alla comunità di Radio Maria per pregare Nostro Signore. Sicuramente sono convinto che quando due o tre persone, non lo dico io, lo dice Nostro Signore, si uniscono per chiedere qualcosa a Dio, se la preghiera è fatta bene, se la preghiera è fatta con fede e se la preghiera chiede una cosa buona per noi, quella preghiera ha effetto. Ovviamente nel momento in cui noi ci uniamo a una comunità, e la comunità di Radio Maria è una comunità forte, grande, perché non ci sono solo persone che pregano con le labbra o con il canto. Ci sono persone che mettono nella preghiera le loro sofferenze, i loro sacrifici. Chi ascolta Radio Maria a volte può essere malato, ma può anche arrivare da una giornata di lavoro, essere in macchina dopo una giornata di lavoro faticosa e sta mettendo i suoi sacrifici. Ora, quando nella preghiera noi mettiamo la nostra vita, è chiaro che la preghiera è potente, e quindi ringraziamo il Signore se grazie a questa preghiera suo padre ha trovato un sollievo nell'esperienza della sua malattia. Sicuramente quando non c'è questo miracolo ce n'è un altro più profondo, magari non vengono alleviate immediatamente le sofferenze del corpo, però c'è, come dire, la sofferenza dello spirito, la sofferenza interiore che viene in un certo senso lenita. Una cosa sono certo, che Maria, quando viene pregata da noi con fede, non ci lascia mancare una sua carezza, e la sua carezza si esprime sempre in una sensazione che non siamo soli, che camminiamo con una luce accanto a noi, e passo dopo passo, giorno dopo giorno, riusciamo ad andare avanti nella vocazione che il Signore ci ha affidato. Grazie Massimo per la tua domanda. Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Telefono dalla Sardegna, sono Flavia. Mi dica, Flavia. Allora, riguardo alle sofferenze e alla solitudine di Gesù, io volevo ricordare una cosa. Io faccio l'ora santa da molti anni, dalle 11 a mezzanotte. Però a un certo momento, guardando un quadretto che ho di Gesù nel Getsemani, rifletto sulla sofferenza che lui ha patito quando è andato a cercare aiuto dai suoi discepoli e si è trovato solo. Praticamente io soffro la solitudine perché sono sola, sono una persona anziana. Però a un certo momento, guardando Gesù e considerando che la sua passione, la sua solitudine, il 90% della mia solitudine pesa sulle sue spalle, io mi sono vergognata. Di che cosa mi lamento, ho pensato. Sono rimasta senza parole. Ho potuto dire solo grazie Gesù, grazie, ti offro le mie lacrime, ti offro la mia solitudine. Non ho saputo dire nient'altro. Ho pianto, però poi sono stata meglio, perché so che c'è Lui sempre con me. Penso che dovremmo riflettere un pochettino su ciò che ha sofferto Gesù per noi. Forse il mondo sarebbe molto, molto meglio. È tutto questo che volevo far presente, perché è un'esperienza che ripeto molto, molto spesso, ogni giovedì. Grazie signora Flavia per questa sua condivisione e soprattutto per la preghiera con la quale sicuramente raggiunge molte persone. Lei giustamente ha richiamato l'episodio del Getsemani, anche in questo, quando l'abbiamo commentato, abbiamo evidenziato questi aspetti. In questo l'Evangelista Marco si distingue proprio dagli altri evangelisti, no? Quando noi avevamo commentato questo brano, avevamo sottolineato come il secondo Vangelo evidenzia proprio questo bisogno di vicinanza da parte di Gesù. Gesù non si allontana, come dice Luca, quasi un tiro di sasso, il tiro di sasso è lungo, ma si allontana un micron, dice il testo greco, cioè solo un pochino dai tre discepoli prediletti quando prega. E poi torna indietro tre volte, e tre volte li sveglia, non si accontenta che siano lì, li vuole svegli, chiede che vengano con lui. Condivide il suo stato d'animo dicendo che è provato dall'angoscia e dalla paura, cioè tutti elementi che dicono come Gesù ha bisogno della presenza fisica dei suoi, e sarà proprio questa che mancherà nel momento della passione, quello che abbiamo commentato oggi. Quindi è molto bello il fatto che lei si soffermi sulla solitudine di Gesù. Nello stesso tempo teniamo però presente che Gesù non è una persona che vive la solitudine a livello così sterile. Gesù cerca di superare l'elemento della solitudine. La solitudine di Gesù è sempre abitata, è abitata dal Padre prima di tutto ed è abitata dal desiderio di avere comunque i discepoli vicini. Questo perché dico questo? Perché noi nella nostra esperienza di vita non c'è niente da fare, tutti passiamo per questa strada e normalmente l'età dell'anzianità, quando gli anni sono tanti e magari uno ha costruito la sua famiglia e oramai i figli sono sposati, i figli sono andati fuori casa, hanno la loro famiglia da seguire, cominciano a arrivare le malattie. Allora è quella la pagina in cui si sperimenta di più la solitudine ed è quella la pagina in cui si corre anche il rischio più grosso prodotto dalla solitudine. Qual è il rischio più grosso prodotto dalla solitudine? Quello di chiudersi in se stessi. Invece no, Gesù ci insegna ad alzarci, ad andare a cercare. La solitudine va combattuta, la nostra solitudine per essere autentica deve essere abitata. Abitata da Dio, prima di tutto, e ecco la dimensione della preghiera, e abitata dai fratelli, dagli amici. La tentazione di chiudersi in noi stessi e di dire ma che tarocco che sono diventato perché ormai sono anziano, è una tentazione. Ecco, fino all'ultimo momento le nostre ferite, il nostro essere devono essere delle porte aperte all'accoglienza dove si condivide e allora la vita resta carica di senso. Ecco, la ringrazio signora Flavia per questa sua domanda, per questo suo intervento, perché ci dà modo proprio di cogliere la duplice dimensione di questa esperienza che fa parte dell'esperienza del discepolo di Cristo. La solitudine. C'è una dimensione luminosa, quindi la solitudine come spazio in cui io mi rendo più conforme a Cristo e resto però in comunione con Dio, e c'è un'altra dimensione che è oscura, la solitudine come tentazione che insterilisce l'uomo, che lo rende sterile perché lo fa chiudere in se stesso. Ovviamente è la prima dimensione, quella che Gesù ha vissuto e quella che lui ci indica, dove la nostra vita diventa si svuota per continuare ad essere spazio di accoglienza, ed è in fondo quello che lei con la sua ora santa il giovedì sera cerca di vivere, di rendere presente. Grazie quindi per questa sua testimonianza. Pronto? Buonasera padre, sì. Sono Angelo, chiamo da Palermo. Bene signor Angelo, mi allora, dica. La domanda è questa: quando Gesù è morto ha acceso lo spirito, giusto? Sì, esatto. Ed è sceso agli inferi, scendendo agli inferi, è sceso in corpo e spirito o soltanto in spirito? Questa è la domanda. Certo. Allora, la ringrazio signor Angelo, perché con questo interrogativo mi permette di fare due riflessioni. La prima è completa quanto abbiamo detto. Dicevo prima che la narrazione di Marco ci permette di cogliere come il compimento del ministero pubblico di Gesù, cioè il compimento dell'annuncio di Gesù, avviene abbracciando tutta la realtà dell'uomo. Quindi noi possiamo vedere, cogliere, fotografare l'insegnamento di Gesù come una sorta di discesa continua. È una spogliazione continua. Questa spogliazione continua raggiunge il suo culmine nel momento della passione e morte, dove Gesù abbraccia l'elemento più basso, la feccia dell'umanità, vivendo su di sé l'abbandono degli uomini, l'abbandono della creazione, l'abbandono di Dio. E tutto questo è coronato dal credo proprio dal credo apostolico, con quell'espressione discese agli inferi. In un certo senso la kenosi, l'abbassamento, l'umiliazione di Gesù non è finito con la sua morte, ma culmina negli altri due elementi ulteriori di spogliazione, che sono: uno, la deposizione nella tomba, Gesù verrà deposto dalla croce e messo nel sepolcro; due, la discesa agli inferi, Gesù scende ancora più in basso, proprio per dire che abbraccia la situazione umana fino a far sua l'esperienza dei prigionieri, e i primi prigionieri che avevano bisogno di essere liberati erano quelli che abitavano ancora il mondo dello Sheol, il mondo delle tenebre. Gesù, dopo aver vissuto su di sé l'esperienza delle tenebre da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, scende nel regno dello Sheol, nel regno del caos, per portare la luce, dopo aver vissuto su di sé il peso del caos, del caos, della decreazione, del caos delle tre ore. Come è sceso Gesù? In corpo o in corpo e spirito? Ma la risposta penso sia quella che caratterizza la nostra fede nel giorno futuro. Noi non risorgiamo solo in spirito, risorgiamo in corpo e spirito. E Gesù si è manifestato ai suoi discepoli come risorto in corpo e spirito, ha mangiato, ha mostrato i segni delle ferite. Certo, è una corporeità trasfigurata, diversa da quella che noi possiamo vivere o sperimentare, ma è sceso in corpo e spirito. E qua permettetemi di ricordare, di richiamare la vostra attenzione un'icona a cui io sono molto affezionato, un'icona molto bella, che è proprio l'icona della discesa di Gesù agli inferi. Quando sono stato a Međugorje restai colpito la prima volta che andai negli anni 90, restai colpito dalla cappella della comunità Cenacolo, dove chi di voi è stato sicuramente se lo ricorda, dove al centro di questa cappella c'è questa enorme icona di Cristo del Risorto, no? Che scende agli inferi e afferra per i polsi Adamo ed Eva, spezzando le catene, no? Della morte. Ecco, lì vediamo la pienezza della luce che scende nel luogo delle tenebre e il Cristo non solo in spirito, ma in spirito e corpo, che afferra i polsi di Adamo ed Eva, trasfigurando anche solo con questo tocco la loro figura. Penso che sia un'icona che da sola parla e dice quanto la forza della risurrezione, per chi è in contatto con Cristo, abita sempre l'esperienza dell'uomo. Grazie Angelo, che da Palermo anche tu hai dato il tuo contributo alla nostra trasmissione. Pronto? Sì, pronto? Mi sente? Sì, sì, la sento, mi dica. Sono Sandro da Roma. Sandro? Allora, buonasera. Sì. Senta, io volevo chiederle se prima della riflessione sul senso della morte di Gesù e il sacrificio, l'avevo già sentita dire qualche cosa sul fatto storico, nel senso della condanna fatta dai due poteri principali del mondo, che sono quello politico e quello religioso. Ora, il cristiano come si deve porre, secondo lei, davanti a questi due poteri? Noi spesso anche i cristiani prendono una posizione o parte verso questi due poteri, ma dovremmo invece, secondo me, essere sempre distaccati da questi due poteri e vedere la verità soltanto nella figura di Cristo. Certo, certo. A esprimerla, però forse credo ha capito il senso qual è. Penso di sì, penso di aver capito. Il potere religioso e politico, oppure dovremmo sempre assumere una posizione di distacco? Perché certo. Comunque non rappresentano fino in fondo la verità. Ecco. E la ringrazio Sandro, la sua domanda è stata molto chiara. Allora, su questo aspetto premetto una cosa. Se noi stiamo alla narrazione di Marco, io tendo sempre a rimanere ancorato proprio al Vangelo che stiamo commentando, l'Evangelista evidenzia che la morte di Gesù non è frutto di un solo gruppo di persone. La morte di Gesù vede entrare in scena quattro grossi protagonisti. Il primo è il potere religioso, quindi le autorità sacerdotali, il Sinedrio in tutti i suoi aspetti, che è il primo che spinge in questa direzione. Il secondo è il potere politico, rappresentato da Pilato e dei soldati. Il terzo gruppo è la folla, che è un po' lo zimbello dei primi due poteri. E poi c'è un quarto gruppo che non dobbiamo dimenticare. Il quarto gruppo che è responsabile della morte di Gesù, non c'è niente da fare, sono i discepoli, sono i suoi. È quel Giuda che consegna alle autorità religiose, ma non è solo Giuda. Giuda è continuamente menzionato, descritto come uno dei dodici, quindi sono i dodici. E la loro assenza nel momento della condanna a morte di Gesù e della sua morte sulla croce è profondamente colpevole. Ora, il fatto che questi quattro gruppi siano in qualche modo corresponsabili della fine di Gesù diventa un monito, ovviamente, per chi legge. Un monito a fare attenzione a quelle che sono le nostre convinzioni di fondo, il nostro cammino di discepoli. Chi sta in piedi guardi di non cadere, in altre parole, cioè qualunque sia il percorso che noi facciamo, la tentazione dello spirito nemico è sempre quella di stordire e far cambiare il bene in male. Ora, questo non ci deve portare a dire ok, allora il potere religioso è ambiguo, il potere politico è ambiguo, ciò che pensa la gente è ambiguo, il discepolato è ambiguo, no? Ci deve portare a stare in guardia. Ogni tipo di vocazione religiosa, politica, laica o mettete quella che volete voi, ha degli orizzonti luminosi, ma anche delle tentazioni oscure. Non c'è un elemento di fronte al quale devo stare più in guardia rispetto ad altri, non è che la politica è più pericolosa che non l'esperienza religiosa, dipende sempre da come è vissuta. noi veniamo da una storia gloriosa per quanto riguarda la Repubblica Italiana, che vede delle figure enormi, provenienti anche dal mondo cattolico, che meritano tutta la stima, persone che hanno vissuto la vita politica senza fare strombazzamenti di piazza che non portano da nessuna parte e senza portare nemmeno maschere o facendo leggi ad personam, ma pensando veramente al bene del popolo. Sono persone che meritano tutta la nostra stima, hanno vissuto l'esperienza politica come una vocazione ricevuta da Dio per il bene altrui. Ugualmente per l'ambito religioso, abbiamo tutta una storia di cristianesimo dove abbiamo religiosi, religiose di tutte le tipologie che sono dei veri modelli di santità, ma abbiamo anche pagine oscure dove la vita religiosa ha vissuto pagine di imborghesimento, dove le contraddizioni erano a vista d'occhio o sono a vista d'occhio. Insomma, tutte le tipologie di esperienza sono esposte a questo duplice lato della medaglia. Ecco, il Signore chiede a ciascuno di noi di vigilare, e il fatto che il Vangelo di Marco racconti l'esperienza della passione di Gesù mostrando il lato oscuro del mondo religioso, del mondo politico, del discepolato e della folla è una messa in guardia a tutti noi, perché nel rischio, se hanno corso questo rischio questi quattro gruppi di persone, vuol dire che questo rischio lo possiamo correre anche noi. Grazie Sandro per questa tua domanda. Pronto? Sì, pronto, buonasera Alfonso. Buonasera, sì, mi dica. Una domanda che è di carattere scientifico, sì. Un carattere strettamente scientifico. Prima ascoltavo che in pratica si è oscurato tutto il globo, tutto il mondo, durante. Sì. Ecco, ma come si può avere la certezza che non si sia trattato di un'eclisse e che tutto il globo sia oscurato? Sì. Se Marco lo scrive in base a qualche prova scientifica, oppure è una metafora che riconduce poi ad altri significati? Certo, certo. Allora, la ringrazio e cerco di rispondere in modo, spero, abbastanza chiaro. Allora, non dobbiamo pensare agli evangelisti come a persone che partecipassero agli eventi in presa diretta con, come dire, un quaderno di appunti e annotassero subito quello che avveniva. Tanto più se si tratta di persone della seconda generazione, e Marco sembra in un certo senso appartenere ai cristiani della seconda generazione, non a persone che hanno vissuto in diretta, anche se qualcuno dice che probabilmente Marco è nascosto in alcuni personaggi della narrazione del suo Vangelo. Quindi alcuni dettagli della narrazione vanno colti come un messaggio teologico. Ovvio che quando Marco parla dell'oscurità che avvolge tutta la terra, perché lui sta constatando che quello che si sta verificando avvolge tutto il globo terrestre, perché non ha gli strumenti per farlo, semplicemente, ma sta sottolineando che nel momento in cui l'uomo si priva di Dio e vuole estromettere Dio dalla storia, ripiomba nel caos, ma non ripiomba solo lui nel caos, fa ripiombare l'intero mondo nel caos. Senza Dio, senza Cristo, il mondo è privo del suo elemento di vita. Che non si possa trattare invece di un'eclissi è provato scientificamente, per la ragione che spiegavo durante la trasmissione. Quando c'è la luna piena, e noi sappiamo che la Pasqua viene sempre celebrata in questo contesto, non è possibile che ci sia un'eclisse di sole, perché ci sia l'eclisse di sole occorre l'altra fase lunare, per cui questa è la spiegazione, se vuole, di carattere scientifico, ma quello che è più importante è, al di là di questo, l'elemento è il significato del dettaglio, cioè non è che Marco ha fotografato l'evento in sé, ma attraverso quell'evento ha voluto comunicare un messaggio. Anche nella narrazione, in genere quando commento questo episodio giungono delle telefonate che dicono: no, ma Gesù non era da solo, Gesù ai piedi della croce ci aveva sua madre e il discepolo amato, perché Giovanni dice così. Anche qua è ovvio, ogni evangelista racconta a modo suo per evidenziare un aspetto. Marco tiene a sottolineare per un preciso intento teologico la solitudine del maestro, che diventa però, come dicevo prima, una solitudine che sa accogliere. Lo vedremo la volta prossima. Nel momento in cui Gesù muore, paradossalmente nel momento in cui Gesù dona lo Spirito, quel verbo utilizzato per descrivere la morte di Gesù, la scena si popola di figure positive, come se fosse necessario quel dono fatto nel momento dell'estrema povertà. Cioè, anche nel momento in cui Gesù non ha più niente, non ha più nulla, è povero fino all'ultimo gradino, perché non ha più nessuno attorno a sé, la creazione si è ritirata, il Padre non si fa sentire, però l'ultimo atto di Gesù è ancora un dono, ed è il dono di quello Spirito che permette al mondo di mettere germogli. E questo è stupendo, perché vuol dire che quando uno, nella sua povertà, nella sua sterilità, nella sua situazione desolante, è capace però di fare un piccolo dono di sé, quel piccolo dono di sé mette germogli, e allora questo non può non dare una grande speranza a tutti coloro che in qualche modo cercano di seguire le orme del maestro. Grazie quindi anche a lei per la sua domanda. Pronto? Sì, buonasera padre. Buonasera. Mi chiamo Osvaldo e chiamo d'Ancona. Mi dico Osvaldo. Senta, io volevo fare una domanda padre sulla frase di Gesù sulla croce: perdona loro che non sanno quello che fanno. Volevo sapere, cioè un suo parere chiaramente, questa frase era rivolta ai sacerdoti, ai farisei, come voler dire state uccidendo il Messia di cui ha parlato sempre le vostre scritture, quindi non sapete quello che state facendo, oppure era rivolta ai soldati, come voler dire non sapete che così vi dannate, oppure era rivolta ai carnefici che lo crocifiggevano, che praticamente la Emmerich sulla Passione dice che questi erano praticamente anche ubriachi, come tante volte noi diciamo, quello non sa quello che sta facendo, è ubriaco, non sa quello che pensa o non sa quello che dice. Ecco, volevo un suo parere su questa frase praticamente. Grazie Osvaldo per la tua domanda. Mentre esponevi, appunto spiegavi, illustravi la tua domanda, in fondo la risposta era già tra le righe. Proprio perché questa espressione che viene utilizzata dall'Evangelista Luca, è quello che mette in scena più protagonisti possibili durante il racconto della Passione e evidenzia anche lo spuntare di tante figure positive, quello anche che fa parlare di più Gesù durante il percorso verso il Calvario, quindi emerge in modo forte la misericordia da tutti i punti di vista, la misericordia di Gesù nei confronti del popolo, ma anche dei piccoli segni di misericordia del popolo nei confronti di quello che sta succedendo, per cui c'è sempre un gesto, dal gesto delle donne verso Gesù che gli vanno incontro, dal buon ladrone. Insomma, ci sono tutta una serie di figure positive, no? Che assicurano un minimo di solidarietà con il maestro. Quindi quella frase che Gesù dice va colta all'interno, nella cornice di questo grande messaggio di misericordia che l'Evangelista Luca vuole comunicare. E proprio perché è incorniciata in questo grande messaggio, la frase non è rivolta ad uno specifico gruppo di persone, non è rivolta ai soldati che lo stanno crocifiggendo o a chi ai piedi della croce lo sta insultando o ai soli sommi sacerdoti che gli hanno fatto patire quello che Gesù ha patito, ma è una frase rivolta a tutti. Gesù sulla croce ha invocato il perdono per ciascuno di noi. E proprio per questo, come dirà Paolo nelle sue lettere, noi possiamo continuare a rivolgerci a Dio chiamandolo Padre. In fondo quello che Gesù ha patito sulla croce ci vede tutti corresponsabili. Il mistero del Golgota non è finito, finirà solo nell'ultimo giorno, quando tutti noi saremo portati con Cristo nella gloria. Finché la storia di questo mondo continua, la storia del peccato continua, con tutto il dolore che questo può portare nel cuore di Dio. Ecco, noi possiamo, nonostante questa storia di peccato, rivolgerci a Dio chiamandolo Padre, perché Gesù ha invocato il perdono per ciascuno di noi e ci ha resi figli in Lui. Quindi vede Osvaldo quanto questa espressione che lei ha menzionato è importante anche per il nostro rapporto con Dio, il nostro cammino di discepoli. Grazie per il suo intervento. Pronto? Buonasera, don Perego. Buonasera, con chi parlo? Mi chiamo Anna e telefono da Torino. Volevo chiederle se può spiegarmi la frase di Gesù che parla di battesimo riferendosi alla sua morte. Certo. Grazie, buonasera. Ringraziamo anche Anna da Torino, sarà la nostra ultima telefonata. Gesù effettivamente, per descrivere l'immagine della sua morte, utilizza due simboli, quello del calice e quello del battesimo. Il calice da un lato richiama la vocazione di Dio e il giudizio di Dio. Il calice è ciò che crea comunione tra due persone. In genere il calice veniva dato quando una persona riceveva un mandato particolare per dire io ti sostengo in questo mandato, ma il calice è anche l'immagine dell'ira divina. Il battesimo richiama più o meno le stesse immagini evocate dal calice. Il battesimo richiama un momento particolare perché è un momento delicato, di passaggio. Battesimo significa essere immersi, quasi affogati nell'acqua per rinascere poi a nuova vita. Il verbo stesso battizzo significa proprio essere immerso in una realtà che ci è ostile. L'acqua è sempre stata intesa come un elemento di ostilità. Per cui indica da un lato una sorta, è quello che il calice evidenzia con il giudizio, però battesimo indica anche la rinascita a qualcosa di nuovo, dopo l'immersione c'è l'emersione. E non a caso il ministero pubblico di Gesù inizia con il gesto del battesimo nelle mani di Giovanni Battista. Ecco, la signora Anna ci permette di ricordare come il prologo del Vangelo di Marco, vale a dire la prima pagina del Vangelo di Marco, anticipa tutta la narrazione successiva. E la prima pagina del Vangelo di Marco si compone proprio della folla che corre da lui, del battesimo e dei giorni nel deserto. Ecco, la folla che corre a lui corrisponde al ministero pubblico di Gesù. Il battesimo nelle mani di Giovanni Battista corrisponde al racconto della passione e morte, i 40 giorni a quello che succede, cioè la restaurazione paradisiaca, a ciò che succede dopo la risurrezione. Quindi c'è proprio una corrispondenza che gli studiosi hanno analizzato nei dettagli tra la prima pagina e l'ultima. Quindi già nel battesimo, nelle mani di Giovanni Battista, era evocato quello che Gesù avrebbe ricevuto nella morte. Quindi un'immersione in una fase di passaggio delicata e nello stesso tempo una consegna da parte del Padre. Grazie Anna quindi per questa tua domanda. Ecco, ringrazio tutti gli ascoltatori che sono intervenuti, sono contento questa sera perché siete intervenuti numerosi, ben 9, da Anna di Torino, Osvaldo di Ancona, il nostro ascoltatore di Milano, Sandro da Roma, Angelo da Palermo, Flavia dalla Sardegna, Massimo, la nostra consacrata di Venezia, e la prima ascoltatrice, la Lina da Roma. Quindi a tutti voi un sincero grazie, perché ci avete permesso di approfondire ulteriormente questa pagina così significativa del Vangelo di Marco, e su tutti voi la benedizione di Dio. Possa il Signore continuare ad accompagnare le nostre vite e renderci capaci di trasformare le nostre ferite, le nostre solitudini in spazi accoglienti, così come Gesù ha saputo fare. Un caro saluto a tutti voi e a risentirci alla prossima puntata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.